ci scrivi. Domanda secca per cominciare: perché all'estero questo è possibile e in Italia pare sempre l'eccezione? Io credo perché le procedure di selezione all'estero sono in generale veloci e trasparenti, e assumere il candidato migliore è prima di tutto nell'interesse del datore di lavoro. Cominciamo raccontando i tuoi studi, economia a Torino, perché questa scelta? Avevo molto interesse nei confronti delle politiche sociali, della famiglia e dell'istruzione, e quindi ho pensato che laurearmi in economia mi avrebbe aiutato a capire un po' di più su tutte queste cose e fare qualcosa di utile per il paese in cui vivevo. Ti laurei 12 anni fa, allora da 1 a 10 che voto diamo alla nostra università? Un bel 9, io ho avuto un'ottima preparazione della mia università in Italia, forse un pochino troppo ampia, un pochino broad, ma sicuramente valida. Quando sono arrivata a Londra e ho iniziato il master, devo dire che io e i miei amici italiani eravamo tra i più preparati. Allora attenzione, perché tu hai trovato lavoro già prima di laurearti in uno dei nostri grandi gruppi bancari. Va anche ricordato che la grande crisi all'epoca era ancora di là da venire. Come sei stata assunta e di cosa ti occupavi in breve? Ho fatto un concorso nel 2000, l'ho vinto. Lavoravo al call center della banca e principalmente mi occupavo di borsa, seguivo investimenti. Allora, nel 2004, la svolta che segna per sempre la tua vita. Vinci la borsa di studio Donato Menichella della Banca d'Italia, grazie alla tua tesi, e frequenti un master in economics alla University College of London. Ti trovi in una delle più prestigiose istituzioni per gli studiosi di microeconomia applicata. Allora, quale radicale cambio di prospettiva ti porta quell'esperienza? È un'esperienza che mi ha aperto sicuramente gli occhi su che cosa davvero volesse dire diventare un economista e studiare per diventare un economista. È stato un anno estremamente faticoso in cui ho studiato davvero tanto, ma ho capito che cosa mi interessava. Poi lì ho incontrato una persona che è stata una persona chiave per me, il mio mentore inglese, si chiama Ian Walker, che allora lavorava a Warwick e mi ha offerto una fantastica borsa di studio per un dottorato. All'epoca io non ho accettato quell'offerta perché volevo rientrare in Italia con mio marito. E la vera sorpresa arriva proprio al tuo ritorno in Italia. Ti aspetti che la banca annusi la possibilità di sfruttare una risorsa che ha appena dimostrato di avere una marcia in più, ma quale ambiente trovi invece a darti il welcome? Come prima, ho cambiato ufficio, ma non ho avuto nessuna responsabilità in più e nessuno mi ha dato la possibilità di fare davvero l'economista. Il mondo gattopardesco d'Italia, che motivazione ti sei data negli anni successivi per questa mancata valorizzazione? Non so, guarda, io penso alla difficoltà di vedere un po' più in là dell'apparenza. Sembrava che i miei studi fossero tanto teorici e io sembravo tutti tanto giovane. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. È così che nel 2006, quando tuo marito ottiene una posizione come postdoctoral fellow a Sydney, non ti fai grossi problemi di coscienza a lasciare l'Italia, e a Sydney trovi presto una posizione da PhD in economia del lavoro ed economia sanitaria. Quanto è più permeabile il mondo accademico australiano? Sicuramente è stata una scelta molto difficile. L'Australia mi sembrava lontanissima, io all'inizio non sapevo neanche di voler fare carriera accademica, quindi ho cercato prima lavoro, ho ottenuto un paio di offerte, poi ci ho pensato meglio e ho avuto la fortuna di incontrare quella che sarebbe poi stata la mia supervisor di dottorato e di pensare meglio a che cosa davvero volevo fare. Ho trovato un mondo molto interessato a attrarre giovani preparati che avessero davvero voglia di lavorare sodo e rimboccarsi le maniche. Nel frattempo nascono i tuoi due figli mentre lavori alla tesi di dottorato e ottieni una posizione alla University of South Wales come insegnante e ricercatrice part-time. Ma non finisce qui. 4 anni dopo ti viene offerta una posizione permanente all'Università di Aberdeen in Scozia. Per quale ruolo, ma soprattutto cosa ti sorprende in quella chiamata, definiamola così, precoce? Io dovevo ancora finire il dottorato. Si trattava di una posizione permanente da lecturer come ricercatrice. Allora noi volevamo riavvicinarci in Europa, quindi ci sembrava davvero un'ottima occasione. Mancava un anno al termine del mio dottorato, ma avevo già pubblicato un articolo ed è per questo che sono stata presa in considerazione. Ho fatto un colloquio in videoconferenza e circa 6 mesi dopo ho iniziato a lavorare ad Aberdeen. Era presto, ma mi hanno dato molta fiducia e mi hanno dato la possibilità di mettere in pratica tutto quello che stavo imparando e avevo imparato. In Scozia, tra l'altro, ti porti dietro l'intera famiglia e in questo girovagare per il mondo da un capo all'altro del pianeta resta però un grande interrogativo. E l'Italia? Possibile, si chiederanno gli ascoltatori, che a Silvia non sia mai venuta voglia di dare un'occhiata anche qui. E tu l'hai fatto. Partiamo col mondo accademico. Ci racconti di quella volta che in gravidanza all'ottavo mese ti hanno rifiutato un un colloquio via Skype? Avevo visto un bando per un concorso da ricercatore, volevo partecipare. Ero a Sydney prima della nascita del mio secondo figlio, ero all'ottavo mese di gravidanza, quindi non potevo assolutamente volare. Ho chiesto di fare un colloquio via Skype al direttore del dipartimento, che non mi ha mai risposto. Da queste parti, diciamo, they're lost. Eh già, la perdita è stata tutta loro. E ricordiamo solamente che nel mondo civile e globalizzato il primo colloquio via Skype ormai è la regola. Forse non ancora in Italia, ma non finisce qui. Prima di tornare a Sydney ho provato a tornare anche alla mia banca. Ricordi con quale catastrofico risultato? Forse non catastrofico, ma non è cambiato di nuovo nulla. Non ho avuto mai le chance di occuparmi di ricerca economica. Un master e un PhD non sembravano sufficienti per ottenere responsabilità in più e un lavoro diverso. E a quel punto non hai avuto più dubbi. Dalla Scozia back to Australia, potremmo dire, con tutta la famiglia al seguito. Sei tornata dunque al mondo accademico. Ossi, attualmente di cosa ti occupi? Sono lecturer in economics, insegno nell'università di Wollongong e faccio ricerca. Mi occupo soprattutto di economia sanitaria, economia dell'istruzione. C'è un punto fondamentale nelle riflessioni che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it e che segna una differenza enorme tra il mondo accademico di matrice anglosassone e quello italiano. In quale produttiva e meritocratica competizione ti sei trovata inserita in Australia come in Scozia? E come ti dicevo prima, selezioni semplici e molto trasparenti. Le università cercano di assumere una persona che sia un buon match con il dipartimento. Quando lo trovano lo assumono, appunto. Non si tratta di essere più bravi, più buoni, soltanto più efficienti. Ovviamente la competizione è su scala globale, ci sono persone che arrivano da tutto il mondo, ma oggi molte università non permettono nemmeno agli studenti di dottorato di candidarsi per posti di ricercatore nella stessa università in cui hanno studiato. Bisogna muoversi, bisogna andare all'estero, bisogna cercare lavoro altrove, è una regola. Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Io penso che l'Italia sia un paese bellissimo, che abbia moltissime potenzialità inespresse. A volte quello che mi sembra è che sia un sistema che non voglia guardare a quello che c'è fuori e non voglia imparare anche un po' dagli esempi virtuosi che ci sono in giro. Io penso che l'Italia debba cercare davvero di dimostrare ai propri giovani che serve a qualcosa imparare, studiare, impegnarsi e migliorarsi. Ci raggiunge ora in linea Cinzia Rienzo, ricercatrice presso il National Institute of Economic and Social Research di Londra. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Cinzia, quanto ti ritrovi e ti rispecchi nella storia e nelle considerazioni di Silvia? Sono molte considerazioni in cui mi rispecchio. Sicuramente una fondamentale è che qui in Inghilterra ho avuto tante opportunità di ottenere posizioni, così come diceva Silvia, senza conoscere nessuno, basato semplicemente sul mio curriculum, sulle lettere di referenze e su quello che ho dimostrato di saper fare. Certamente, così come ha detto Silvia, il master è stato molto faticoso, ma è stata un'opportunità di scoprire nuovi settori di ricerca. La cosa in cui io non mi rispecchio in Silvia è che non ho mai provato a tornare in Italia e probabilmente non ci proverò mai. La tua storia in breve: laurea in discipline economiche e sociali all'Università del Molise, poi 10 anni fa vinci un concorso di dottorato con borsa di studio sempre in Molise, prima di partire l'anno successivo per Londra. Nella capitale britannica ti porta un master in economia, partì avendo già in mente di rimanere, ci scrivi. Perché? In realtà quando stavo facendo le ricerche per vedere dove poter fare queste domande per il master, guardando le pagine delle università inglesi, ma non solo inglesi, fu chiaro subito un aspetto internazionale e multiculturale delle università che si rifletteva non solo nei ricercatori ma anche negli studenti. Quindi era chiaro, basta guardare le pagine delle università inglesi, è chiaro un approccio molto più orientato alla ricerca e alla varietà e alla qualità della ricerca piuttosto che all'insegnamento, cosa che spesso accade in Italia. Nel 2006 inizi un PhD in economia, attualmente sei ricercatrice presso il National Institute of Economic and Social Research e collabori anche con l'Università di Oxford. In una considerazione che ci hai inviato sei molto tranchant: in Italia domina il nepotismo in ogni settore e ad ogni livello, scrivi. Quanto l'hai potuto osservare e magari anche subire in prima persona quando eri qui? Sì, in realtà questa considerazione è tanto tranchant quanto vera. Io personalmente l'ho osservata direttamente e indirettamente subita nelle comunità dove sono cresciuta. Faccio un esempio: prima di iniziare di provare il concorso di dottorato in Molise, parlando con un professore di Roma, disse magari provo a fare un concorso di dottorato in una delle università a Roma, e questo professore mi rispose: guardi, se vuole provarci lo faccia, ma sappia che sarà un'esperienza perché io sono in commissioni d'esame e deve sapere che le sue capacità potrebbero non essere valutate per quelle che sono. Questa è una frase che è specchio dell'Italia. Ah, cioè, sì, può essere bravo quanto quindi vuoi, ma se non conosci Esatto. Non emerge. È inutile fare nemmeno la domanda, ecco, è inutile sprecare il tempo nemmeno a fare la domanda. E quindi diciamo, questo è, diciamo, è un aspetto molto triste, perché l'università italiana, che dovrebbe formare il capitale umano, dovrebbe insegnare alle persone a basarsi sulle proprie capacità, in realtà insegna come inserirsi usando le connessioni e usando appunto il nepotismo. Ma in realtà io il nepotismo l'ho osservato, e purtroppo lo osservo ancora oggi, per esempio nella mia regione, dove ci sono politici che gestiscono parte del mercato del lavoro ancora con il voto di scambio. L'ho osservato tra le persone che conosco, che hanno vinto concorsi per carabinieri, polizia, guarda giurata negli uffici pubblici tramite raccomandazioni. Ovviamente ci sono tante che lo hanno ottenuto senza raccomandazioni, ma probabilmente conosco più persone che lo hanno ottenuto con raccomandazioni. A mio avviso il nepotismo in Italia è una delle cause dell'immobilità economica e sociale, probabilmente anche una delle cause della crescita del declino, della disuguaglianza e del declino. Cinzia, sei specializzata in economia del lavoro, soprattutto nell'impatto delle migrazioni sul mercato dell'impiego. Mai persona è stata più adatta di te in questi anni a rispondere a una cruciale domanda: come trasformare l'Italia in un paese attrattivo, inserito in una rete di circolazione dei talenti, un paese che insomma i talenti li sappia attrarre e non far scappare? Beh, sicuramente innanzitutto, per poter attrarre i talenti, bisogna innanzitutto aprirli ai talenti, alla circolazione dei talenti. L'esperienza di Silvia ci insegna che in realtà l'Italia al momento non riesce ad essere aperta e attirare i talenti italiani, figuriamoci quelli internazionali. Secondo me uno degli aspetti fondamentali è quello di cercare di rendere innanzitutto accessibili le posizioni accademiche a ricercatori di tutto il mondo, cose che alcune poche università italiane già lo fanno. In realtà è quello, potrei offrire ai ricercatori italiani all'estero quello che molte università estere offrono ai ricercatori italiani. Quindi ovviamente anche l'importanza di rendere queste pratiche di selezione meno burocratiche, molto più flessibili, appunto una videoconferenza, il curriculum sono sufficienti per poter valutare in modo semplice e trasparente delle persone. Semplice e trasparente, queste le due parole chiave della giornata di oggi, della puntata di oggi. Grazie a Cinzia Rienzo. E domanda diritto per Silvia Mendolia: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Studiate tanto, con tanta fiducia in voi stessi, senza mai accontentarsi, e soprattutto senza credere a chi dice che non c'è alternativa e che bisogna accontentarsi. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective. Ricordatevi che dedichiamo ogni mese uno spazio ben preciso alle vostre lettere on air. Scriveteci nel corso di questa estate le vostre storie in Italia o all'estero, le vostre riflessioni, la vostra voglia di vedere un cambiamento reale ed effettivo nel bel paese. Scriveteci soprattutto cosa ne pensate sulla differenza di opportunità per gli under 40 tra Italia ed estero. Oppure, se vivete all'estero, cosa intendete fare per il vostro o nostro paese nell'ottica di un rientro o di una riconnessione. Leggeremo le vostre lettere nel corso delle prime puntate autunnali. La casella email dove inviarle è sempre giovanitalenti@radio24.it. E ora un appello ai giovani italiani espatriati che ci ascoltano oltre confine su internet e in podcast, o che in queste settimane si trovano nella penisola per godersi delle meritate vacanze, sintonizzandosi ogni sabato sugli FM di Giovani Talenti. Siamo alla ricerca di nuove storie da raccontare nella stagione 2015-2016. Se siete under 40 e lavorate all'estero, candidatevi, cerchiamo voi, we want you, siete tutti reclutati. Anche qui la casella email per candidarsi è giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito radio24.it attraverso la funzione podcast. Scaricateci. Noi ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana e buona estate da Sergio Nava.